giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Storie di Nicola Calipari e Luciano Lutringhe. La seconda storia del giallo nero è dedicata a Luciano Lutringhe, il solista del Mitra, l'uomo che rapinava banche e uffici postali con la sua arma nascosta in una custodia del violino. Mi chiamavano un po' il solista del Mitra perché tra l'altro ero musicista, avevo la mia piccola banda, non ero diciamo un burattinaio, sai, che muoveva tante corde all'epoca mafia, c'erano i miei tempi, perché io ho quasi 70 anni tra l'altro, tengo a precisare, nel 56 il mio primo arresto me l'ha fatto il maggiore Alberto Della Chiesa. Sono gli anni 50 e la Milano Noir raccontata dallo scrittore Giorgio Scerbanenko. Si narra di vecchi bar dove la malavita parla in dialetto milanese e il balordo non spara, non uccide, ma ruba. A quel tempo non gira droga, quella arriverà con la mafia negli anni 70. All'ombra dei navigli si fanno affari con le bische clandestine, le corse dei cavalli, la prostituzione. È la Milano in cui agiscono quelli della banda di Via Osoppo, quando i rapinatori cercano il colpo del secolo. 70 milioni di vecchie lire italiane nel 58 rappresentano una vera fortuna. Luciano Lutri nasce il 12 novembre del 37 a Trieste. Il padre è di origine ungherese e la madre è milanese. Sua madre, amante di Beethoven, voleva che diventasse un musicista e suo padre, esperto di cavalli, voleva che suonasse il violino come un magiaro. Sognava di vederlo un giorno nei panni di uno zingaro. I genitori si trasferiscono poi a Milano. In Via Novara, vicino allo stadio di San Siro, aprono una bar latteria. L'ambiente è quello dell'immediato dopoguerra. Ex partigiani ed ex fascisti, ancora con le pistole. Tante armi non ancora consegnate. Luciano Lutring lo rivela anche a Roberta Giordano. Che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar. Che noia qui al bar. Come entro, ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Con sospiro un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità. L'infelicità. Poi c'è l'Aldo, i Tucchetti e Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa il rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Bar che era frequentato da ex partigiani, da ex, sai, fascisti, tutti i ragazzacci che lì viaggiavano tutti armati ancora del dopoguerra, sai. Io vedendo che loro erano dei molto gagliardi, tutte le donne e ragazze ci prestavano molta attenzione, che io volevo fare il guappetto, e lì ho cominciato a avere la mia prima pistola, una Smith Wesson senza pallottole, e facevo il buletto, sai, quando la sera andavo a ballare di qua e di là nelle balere dell'epoca del dopoguerra, sai, perché c'era il boom economico, c'era ancora la miseria, sai, l'Italia era ancora sotto shock della guerra, sai. Sì, a quell'epoca ci avevano persino paura inoltrarsi oltre, diciamo, Piazza Melosso da Forlì, Piazzale Segesta, la campagna, sai, siete che era in giro la miseria, sai, il tassista sapeva che sovente andava di là, ma non sapeva se tornava di qua con i soldi, che c'erano in giro tanti ragazzi, ragazzacci, ex partigiani, sai. E poi dopo io invece sono iniziato a fare un po' il bandito, prima del bandito il balordino. Lui era fisso che giocava nella notte, qualche passava la piave o carabinieri, insomma un ghisa, tre carima e un mezzanotte, anche la piega la fa, anche un pisse. Il giovane Lutring prende a modello due cugini, Mario e Piero. Il primo è affiliato alla banda di Gino lo Zoppo, l'altro a quella di Dino il paracadutista. La scalata ai vertici della mala milanese giunge in modo graduale nel corso degli anni. I racket delle macchinette mangiasoldi, furti di motorini e di auto, rapine nei negozi e nelle banche. E poi arrivano gli anni 60, Milano, l'immagine della città moderna, europea, la grande metropoli del boom economico. Luciano Lutring, detto l'americano, diventa poi il solista del Mitra in Italia e il pericolo pubblico numero uno in Francia. Resta però un bandito d'altri tempi, un ex bullo diventato malvivente per necessità e ambiente, un romantico che non uccide. Così diverso da tutti quelli che sono venuti dopo.

Per primo perché in Francia mi hanno permesso di scrivere, studiare, dipingere, mi hanno concesso macchine da scrivere, sono l'unico detenuto in Francia che mi hanno concesso macchine da scrivere, anche i colori, sai. Per il processo sono stato condannato a 20 anni di lavori forzati, sono, sai, a metà pena, sono andato 3 anni al penitenziario, sempre a lavori forzati che bisogna lavorare dalla mattina alla sera. Ciascuno secondo le sue capacità, c'è chi lavorava per la Dassault, facevano i cuscinetti per il Concorde, c'è chi facevano casse da morto, chi facevano fiori in plastica, chi facevano i palloni e noi eravamo, io ero capo di un'equipe di 15 ragazzi che facevamo carte geografiche, carte topologiche, comunali, sai, che poi noi dovevamo mettere tutti i colori insieme per poi loro venivano poi stampate. Lutri in pubblica un'autobiografia e solista del Mitra. E due romanzi, La Reincarnazione e Lo Zingaro, da cui è stato tratto un film con Alain Delon. Nel 1977 viene graziato dal presidente della Repubblica Francese, Georges Pompidou, e può tornare in Italia. Lo attendono altri anni di carcere, sempre nel 77 per buona condotta ottiene il permesso di realizzare una mostra pittorica. Oggi è uomo diverso dal suo passato. E i suoi ricordi restano in bianco e nero. Sono quelli di una Milano che non esiste ormai più.